Europa 24. Un saluto e una buona settimana da Gigi Donelli. Nel giro di pochi mesi l'Italia potrebbe contare su risorse targate Europa per 85-90 miliardi da investire in grandi opere su un arco temporale di 7 anni. E quanto spiega questa mattina in un'intervista al Messaggero il ministro per gli affari europei Enzo Moavero. Parlando dei fondi strutturali europei, Moavero spiega: siamo alla fine del ciclo 2007-2013 e per quanto negli ultimi tempi siamo stati più attivi, ancora resta da spendere il 60% circa dell'importo assegnato all'Italia. Torniamo su questo tema tra un momento, ma ora parliamo di Siria, o meglio sulla posizione di intervento o meno appunto nel Mediterraneo del Sud, una posizione condivisa in Europa, come sapete non c'è, ma la situazione dei rifugiati viene monitorata costantemente. L'Unione Europea è infatti il maggior donatore di assistenza ai rifugiati siriani. Pino Arlacchi, europarlamentare del PD e membro della Commissione Diritti dell'Uomo, fa il punto al microfono di Valeria De Rosa. Ci si sta muovendo massicciamente in termini di interventi e di finanziamenti. L'Unione Europea è il più grande ente che fornisce aiuti umanitari nel mondo e per quanto riguarda i rifugiati c'è una quota preponderante di questo problema che viene trattata e gestita direttamente dalla Unione Europea. Devo dire che è un aspetto senza dubbio positivo della nostra azione internazionale, anche se dobbiamo evitare che si arrivi ad una situazione paradossale, e cioè gli Stati Uniti fanno le guerre, intervengono militarmente, bombardano, distruggono infrastrutture, provocano crisi umanitarie e poi l'Unione Europea in qualche misura raccoglie i cocci. Da qualche mese i siriani che fuggono dalla guerra arrivano anche sulle coste dei paesi mediterranei, un numero ancora relativamente contenuto che si disperde nel flusso dei migranti che ogni giorno raggiungono l'Europa, naturalmente le sponde sud, tra i quali quelle italiane. Allora, sempre Valeria De Rosa ne ha parlato con la portavoce di Frontex, Isabella Cooper. L'area più toccata dal fenomeno migratorio in quest'anno è senz'altro il Mediterraneo centrale, dove dall'inizio dell'anno sono sbarcate oltre 25.000 persone. Per quanto riguarda le nazionalità, sono innanzitutto somali, eritrei e cittadini dei paesi subsahariani, però sono in notevole aumento anche le persone che vengono dalla Siria. Un altro punto nevralgico sono le isole greche, dove sono sbarcate oltre 3.000 persone, e qui vediamo che i cittadini siriani costituiscono una parte molto importante. Di tutti i paesi dell'Unione Europea però è la Bulgaria dove l'aumento degli arrivi dei migranti è il più alto in assoluto rispetto all'anno scorso, e qui parliamo dell'aumento di oltre 600%. Siamo pronti a dispiegare i vari mezzi o spostare la nostra assistenza da uno stato all'altro. Avete sentito dunque 25.000 persone fino ad oggi nel corso del 2013. Torniamo a parlare di fondi europei. In apertura vi abbiamo citato il ministro Moavero quando racconta, spiega o meglio denuncia come ancora restino da spendere il 60% dei fondi europei. Allora, in questi giorni a Milano parte un master di progettazione economica e gestione finanziaria dei fondi europei, un master dell'Università Bicocca, proprio per imparare a usare i fondi in un paese che ogni anno lascia sul tavolo molti miliardi. Ce ne parla Vera Paola Termali, che è coordinatore scientifico del master. In effetti la questione poi è semplicissima: ogni paese dell'Unione conferisce all'Unione dei denari in proporzione al suo PIL. Ci sono paesi bravi nella progettazione che riprendono sotto forma di fondi tanto quanto il loro Stato ha versato attraverso i progetti della ricerca di qualsiasi campo, e paesi che non sono in grado nemmeno di prendersi quello che è stato versato al loro Stato. Alcuni prendono anche le parti di altri, ovviamente, perché è una torta che c'è chi è più bravo a mangiare ne mangia di più. A chi è rivolto dunque il vostro master? È aperto a tutti i laureati con laurea breve. Il primo interlocutore in realtà, al di là dello studente, che magari cerca una nuova professione, una professione che al momento è anche ricercata per la congiuntura economica, però il primo interlocutore dovrebbe essere l'azienda che ha delle potenzialità, che sente di averle e che non si mette in gioco Perché ci vuole troppo tempo, perché ci vuole per imparare a farlo. Trovate tutti i dettagli sul sito dell'Università Bicocca. Intanto, infine, facciamo un punto con Sergio Nava. Oggi, di fatto, l'attività europea, sia con la plenaria in corso a Strasburgo, riprende a pieno regime. Quello che è assolutamente un anno cruciale in vista di appuntamenti istituzionali chiave per il 2014. Sentiamo. Lo Stato dell'Unione, l'ultimo del Presidente della Commissione, Giuseppe Barroso, sarà al centro della settimana che si apre oggi a Bruxelles. A Strasburgo è in programma la prima sessione plenaria dell'Europarlamento, che lancia domani la campagna media in vista delle elezioni europee 2014. Gli eurodeputati voteranno anche sul sistema unico di vigilanza bancaria, giudicheranno i piani comunitari contro la disoccupazione giovanile e prenderanno posizione sulla crisi siriana. Stasera a Bruxelles arriva invece il Premier Enrico Letta, che incontrerà il Presidente europeo Herman Farron poi, mentre giovedì la commissaria europea Nili Kroes proporrà l'atteso pacchetto per un mercato unico delle telecomunicazioni che intende proiettare l'Europa nell'era digitale, prevista anche la fine del roaming. Nel weekend occhi puntati sull'Ecofin informale, dove potrebbe tenere ancora banco la Grecia, che rischia un nuovo pacchetto di aiuti. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, Europa 24 torna domani intorno alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.